24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 40 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 20 febbraio. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Tra un attimo parleremo di Brexit, poi parleremo con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Ma prima, cara Maria, volevo sentire un po' che cosa ne pensi delle ultime evoluzioni politiche. Diciamocelo però Maria, non ne possiamo più, basta. No, basta. Io credo che non ne possano più davvero un po' tutti gli italiani, perché abbiamo così tanta necessità di fare cose. Il direttore Fabio Tamburini prima ha fotografato una realtà, quella della Sardegna, impressionante e che somiglia molto a quella anche del resto del paese. Allora, se noi valutiamo, e io devo dire lo valuto con molta serietà, alcuni degli editoriali di questa mattina, ne scelgo due, Massimo Franco e Stefano Folli, vedo che da un lato c'è per esempio Massimo Franco l'impressione che è tutto il gran battage televisivo. Ricordiamo che dietro Renzi c'è un uomo che di televisione sa moltissimo, Lucio Presta. Tutto il battage televisivo con Porta a Porta di ieri sera, dice Massimo Franco, in realtà è qualcosa che ha cercato di nobilitare una marcia indietro. Però il governo istituzionale proposto da Renzi è la stessa proposta che aveva fatto Giorgetti qualche settimana fa. Diciamo che la goccia scava la lapide, la pietra? Beh sì, prima lo propone Giorgetti, adesso ci torna Renzi. Il governo istituzionale è quello che hanno in mente tutte e due. La Lega perché vuole fare fuori Conte, vuole fargliela bagare e vuole in qualche modo tornare al governo. E Renzi perché ha una terribile paura delle elezioni, tant'è vero che un po' maliziosamente dal Partito Democratico hanno inventato il paurellum. La legge elettorale che Renzi vorrebbe è una legge senza il 5% di sbarramento, cioè il paurellum, perché ha paura di non arrivare a quello sbarramento. In ogni caso, se questo è il progetto Lega da una parte e Italia Viva dall'altra, bisognerà vedere chi ci starà. Ci starà Di Maio? Forse sì. Ci sarà il PD? Forse no. Vedremo. Vedremo un pochino. Di certo, si sappia, lo ricordiamo sempre agli ascoltatori, che non è che si può andare al voto subito. Cioè, se cade il governo oggi al voto, non si può andare, perché c'è il referendum. Poi ne tratteremo, domani tra l'altro parleremo, affronteremo l'argomento, c'è il referendum per il taglio dei parlamentari e poi ci sarà da ridisegnare la legge elettorale o quantomeno i collegi. Sulla base di tutto questo, modificare i regolamenti parlamentari sulla base di tutto questo, insomma è una cosa complessa e non sarà breve. Si potrebbe andare al voto con una legge elettorale che secondo il Partito Democratico è pronta, è già in commissione, e teoricamente c'era l'assenso di tutti, incluso Italia Viva, quindi vediamo se fa marcia indietro anche su questo, ma con la legge elettorale poi si potrebbe andare al voto per esempio a settembre. La manovra, che è sempre stato lo spauracchio per cui si dice non si può andare a votare perché c'è la manovra da fare, la farebbe il nuovo governo. Il nuovo governo, ammesso che si riesca a formare non è così semplice. Comunque magari ne parleremo anche tra un attimo, faremo un accenno a tutto questo con Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, che avremo tra poco, col quale però vogliamo andare soprattutto sui dossier concreti, sulla politica industriale e sulle crisi industriali. Prima però, questione Brexit. Allora, ieri il governo inglese ha presentato quello che è il suo progetto di legge che dovrebbe governare l'immigrazione a partire dal 1 gennaio 2021, un progetto che prevede l'ingresso di fatto solamente di lavoratori qualificati con un certo titolo di studio sopra un certo livello di stipendio che otterranno ovviamente in Gran Bretagna, la conoscenza dell'inglese, fatto che esclude tutta una serie di lavori che storicamente i cittadini europei sono andati a fare in Gran Bretagna, a partire dagli italiani, compreso quello dei camerieri. Siamo in linea con Giorgio Locatelli, che è uno chef stellato, ha fondato a Londra Locanda Locatelli, ha vissuto e vive a Londra da tanti anni. Giudice di Masterchef Italia. Tra i protagonisti di Masterchef, in onda proprio il giovedì, questa sera su Sky 1. Locatelli, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno. Buongiorno Locatelli. Senta, questa mattina il Guardian, un quotidiano non certamente filo Thorin, certamente non filo Johnson, però autorevole, spiega perché il nuovo sistema di immigrazione che sta studiando Boris Johnson non funzionerà. Per esempio, spiega che se ci sono migranti qualificati buoni e migranti non qualificati, cioè cattivi tra virgolette, ci sarà un effetto anche sull'ambizioso progetto di costruzioni di infrastrutture che Boris Johnson ha in mente, che vuole realizzare. Quindi si chiede il Guardian: chi le costruirà tutte queste infrastrutture? Perché se non arrivano da fuori gli inglesi, e questo invece non lo scrive il Guardian, ma lo pensano in tanti in Inghilterra, gli inglesi preferiscono tenersi il sussidio di disoccupazione piuttosto che andare a votare. Lei come la vede? E Locatelli, soprattutto, mi scusi, oltre a chi costruirà le infrastrutture, chi servirà ai tavoli, visto che... ecco, sì, io sinceramente, sai, faccio andare avanti un ristorante, per cui non è che ho questa grande visione di queste grandi infrastrutture come Boris Johnson. Però posso parlare di dell'esperienza che stiamo già vivendo da un po' di mesi, che c'è questo proprio completamente, abbiamo completamente questa mancanza di fiducia dei giovani di venire a lavorare in Inghilterra. E i giovani, specialmente gli italiani, per quanto riguarda la ristorazione, devo dire che sostengono, ma non solo, anche l'hotelleria, perché anche gli hotel sono completamente pieni di ragazzi italiani che vengono a Londra per fare un'esperienza internazionale, raffinare il loro inglese, impararlo a un certo livello, per poi aprire a loro una carriera che può essere mondiale, spiegare al mondo, o fare cose del genere. Chiaramente, se tu adesso cominci a gestire l'emigrazione nella stessa maniera come l'Australia, ma l'Australia è dall'altra parte del mondo a testa in giù, noi siamo in mezzo all'Europa, non penso che questo possa funzionare. Sono molto molto preoccupato. Locatelli, ma lei mi scusi, una cosa, ma lei che di esperienza ne ha, ma di camerieri britannici, di camerieri inglesi, quanti ne ha visti? Ce ne sono tanti, ce ne sono pochi, com'è? No, ce n'è qualcuno, specialmente a certi livelli, c'è gente da tutto il mondo che lavora negli hotel e nei ristoranti inglesi, e anche sì, c'è anche la figura del butler è una cosa molto inglese, per cui quella figura esiste nella società inglese. Bisogna dire che negli ultimi 50 anni il lavoro del cameriere non è mai stato fatto dagli inglesi. Cioè, io non ho neanche un cameriere inglese, mentre in cucina abbiamo 3 o 4 ragazzi che sono inglesi, in sala non abbiamo nessuno proprio. Proprio non c'è la domanda proprio, anche perché poi probabilmente al momento tutti i ragazzi che fanno l'alberghiera, un po' come di riflesso come anche in Italia, cercano di andare tutti in cucina, non più qui in sala. Infatti io sto lavorando con il Westminster College, che è un college proprio lì in centro a Londra, e per cercare di riaprire almeno 1 o 2 classi per il servizio, perché ci troveremo con un problema enorme. Senta Locatelli, ma lei ha idea di quanta differenza ci sia, anche a spanne, lo so che non è il suo lavoro, però quanta differenza c'è tra il sussidio di disoccupazione che storicamente viene assegnato, ci sono famiglie che vivono di sussidio da generazioni, generazioni, sì, e invece lo stipendio che prende per esempio un cameriere in una pizzeria? Allora, soprattutto adesso c'è una grande differenza anche tra Londra, nel quale tu devi pagare le persone perché devono vivere a Londra, per cui sicuramente ci sono delle differenze tra le persone che lavorano in centro a Londra, diciamo, insomma, dentro la M25, e quelli che è fuori, il resto del paese, ma sicuramente i benefici poi che vengono dati, viene data l'house assistance, vengono date tutti questi benefici intorno, che poi quando uno li somma insieme tutti questi benefici, vale di più che uno stipendio che prende un ragazzo che viene a lavorare da noi. Questo è poco, come, cioè, tutti i benefici del fatto di avere l'assistenza, diciamo, il reddito di, esatto, disoccupazione, valgono di più che prendere uno stipendio da cameriere. Specialmente in certe zone rurali, certo, nelle zone rurali, certo, nelle zone fuori Londra, questo sicuro, ed è per quello che ti trovi, infatti, una cosa che è rimasta proprio impressionante, un posto come il Galles, che è praticamente è un posto che ha odiato i tori, perché i tori gli hanno chiuso le miniere che c'erano, e lì hai generazioni dopo generazioni a Cardiff, in queste zone qui, gente che è 3-4 generazioni che non ha lavorato, non ha mai lavorato, ha sempre vissuto di sussidio. E come si farà a convincere questi giovani a cambiare questo? Non lo so, se ce la farà. Senta, da imprenditore proprio, Locatelli, e chiudiamo, perché tra l'altro la linea non è ottima. Da imprenditore, teme una carenza di manodopera, per così dire, nelle sale? Sì, sicuramente ci sarà sempre del personale qualificato italiano che vorrà venire a Londra per un'esperienza internazionale qualificante, però sicuramente ci troveremo a fare i corsi molto velocemente nel prossimo anno. Grazie a Giorgio Locatelli, chef stellato di Locanda Locatelli a Londra. Verremo lo stesso a trovarla nel suo ristorante londinese. Grazie mille. Stasera su Sky 1. Yes, tra i giudici, grazie, di Masterchef, questa sera in onda su Sky 1. Ci fermiamo e poi con Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico. Mattino. Siamo in linea con Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico. Patuanelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Eccoci qua. Maria, prego, inizia tu, vai. Buongiorno ministro. Parlare delle questioni che riguardano il suo ministero, non si può non tenere conto del fatto che se questo governo non va avanti, non andranno avanti nemmeno le cose che lei ha in mente di fare da l'Italia a Ilva. Quindi vediamo prima quanto dura questo governo. Citavo prima alcuni editoriali sui quotidiani. Secondo Massimo Franco, di fatto la possibilità di giocarsi la partita del governo istituzionale è una mossa, diciamo, disperata di Renzi per evitare le elezioni. Stefano Folli vede che la minaccia di posticipare a dopo Pasqua, dunque tra 2 mesi, la mozione di sfiducia contro il ministro della giustizia Bonafede, un'altra delle cose che ha detto ieri sera Renzi, è scegliere la via del logoramento senza rottura. Io chiedo a lei, che fa parte di questo governo, di fronte al logoramento e avendo come alternativa un'ipotesi di governo istituzionale nel quale stiate tutti dentro, Movimento 5 Stelle, Lega, PD, eccetera, lei cosa sceglierebbe? Ma intanto premetto che ieri e martedì sono stato a Bruxelles proprio per occuparmi di temi che hanno una certa importanza per il nostro paese e non ho sentito quello che ha detto Renzi perché non ho avuto il tempo di guardare la TV. È evidente che una mozione di sfiducia che, come leggo, ha proposto Renzi al nostro capo delegazione, al ministro della giustizia, significa mettere fine al governo. Non è pensabile che una forza di maggioranza proponga una mozione di sfiducia al nostro capo delegazione. Questo penso che debba essere molto chiaro. Dopodiché io credo che le fibrillazioni, peraltro che sono uno standard di qualsiasi governo negli ultimi 30 anni di questo paese, debbano essere, come posso dire, monitorate e in qualche modo ricondotte a un normale dialogo tra forze politiche che governano assieme, pur avendo delle grandi differenze, ma senza perdere di vista che in realtà l'obiettivo finale è quello di governare per il bene dei cittadini e per risolvere i loro problemi, perché se il dibattito politico deve ridursi ogni giorno esclusivamente alle polemiche, non ha nessun senso che ci sia un governo. Per questo credo che ci voglia un po' di maggior responsabilità da parte di tutti. Patuanelli, a proposito degli incontri che ha avuto a Bruxelles in questi giorni, c'è stato quello con Margaret Vestager. Ci sembra di aver capito che il tema dei 400 milioni di euro di prestito ad Alitalia non sia stato particolarmente, questo prestito, gradito a Bruxelles. Insomma, l'idea è che possa ritenerlo un aiuto di Stato. Ci conferma che, insomma, la visione di Bruxelles su questo tema è piuttosto negativa? Allora, in realtà l'ultima tranche del prestito è oggetto di un'ulteriore verifica, di una eventuale nuova procedura per verifica degli aiuti di Stato. Il tema sono i precedenti 900 milioni, sì. 600 più 300 fatti negli anni. 900 milioni, lo ricordiamo, Patuanelli, mi scusi, lo ricordo agli ascoltatori, che sono un prestito ponte, per modo di dire, perché non hanno scadenze, quindi non è più un prestito in sostanza, sono 900 milioni. Sostanzialmente sì. Dopodiché il tema vero non è se vengono considerati aiuti di Stato o meno, è che nella Costituzione di Raniucco, eventualmente, che andrebbe a rilevare gli asset industriali di Alitalia, ci deve essere la necessaria discontinuità economica, perché quel prestito e quindi quel debito non venga a essere ripetibile per la nuova compagnia, cioè chi acquisirà i rami d'azienda di Alitalia non dovrà acquisire anche il debito nei confronti dello Stato. Questa è la parte principale. Su questo ci sta lavorando il commissario Logrande con grande impegno e capacità per predisporre un bando. Quindi non è detta l'ultima parola, Patuanelli, cioè no, insomma Bruxelles potrebbe vederlo come aiuto di Stato, però non è detta l'ultima parola. Ma nel senso che anche se fosse visto come aiuto di Stato, rimarrà in capo all'Italia di oggi. Se tutti gli asset aziendali saranno ceduti e ci sarà la necessaria discontinuità economica tra la nuova società e la vecchia Alitalia, come è già successo tra l'altro in passato, quel debito non sarà ripetibile per i nuovi soci, che è la parte importante, la parte che ci interessa di più, perché altrimenti nessuno mai acquisterà. Questo vuol dire che ce ne facciamo carico noi. Questo vuol dire che ce ne facciamo carico noi, Patuanelli, inteso come contribuenti. Di fatto è già così. Di fatto è così da decenni. Senta Patuanelli, io continuo nell'elenco delle cose che suscitano tensione, è un eufemismo, all'interno del governo. Allora, prima di tutto lei ha detto la mozione di sfiducia contro il nostro capo delegazione Bonafede, mozione di sfiducia rinviata perché ieri Renzi ha detto se ne parla dopo Pasqua, comunque laddove fosse presentata, per voi è questione di caduta del governo, perché sarebbe un attacco rivolto all'intero governo. Conferma sì o no? Ho capito bene? Sì, confermo, ma se posso aggiungere, vorrei anche capire le motivazioni di un'eventuale mozione di sfiducia. Cioè, esiste una legge dello Stato che è già legge, che riguarda la prescrizione, e esiste la disponibilità del Ministro della Giustizia, che peraltro è il fautore di quella legge sulla prescrizione, di modificarla trovando un punto di equilibrio tra le forze di maggioranza, punto di equilibrio che è stato trovato tra tre forze politiche su quattro e la quarta invece vi si oppone. Ora, la disponibilità del ministro di modificare un suo provvedimento non può essere oggetto di una mozione di sfiducia, perché allora va benissimo, il ministro Bonafede e il Movimento 5 Stelle ritireranno la loro disponibilità a modificare e resta la legge dello Stato che c'è, quindi la riforma Bonafede completa. Quindi cioè, sarebbe un sì, è un assurdo, cioè resta la legge contro la quale ha fatto tutto. Esatto, la disponibilità del ministro di modificare la propria legge viene messa sullo stesso livello della mozione di sfiducia, cioè, è oggettivamente incomprensibile. Guardi, ci sono un sacco di cose incomprensibili. C'è un secondo elemento di tensione ed è quello che riguarda la revoca della concessione ad Autostrade. Ieri la sua collega di governo, la ministra dei trasporti Paola De Micheli, ha detto che la revoca della concessione è la procedura giuridica più complessa della storia d'Occidente. Siccome si leggono ogni giorno titoli per cui revoca della concessione Autostrade, il PD è d'accordo, oppure revoca della concessione di Autostrade, la ministra De Micheli non è d'accordo, ci dice, lei che sta al governo, come stanno le cose? Ci sarà o non ci sarà questa revoca? Siete tutti d'accordo? Guardi, a parte Italia Viva? Premesso che è un dossier che non è nella mia disponibilità, come noto, io credo che tutte le forze di maggioranza, credo anche Italia Viva, si rendono conto che quello che è successo a Genova non può essere un elemento, come posso dire, di secondo piano. È crollato un ponte e quel ponte si è portato via 43 vite e ne ha segnate tante altre dei feriti sopravvissuti, che sono pochi ma che ci sono, oltre al dramma di tutte quelle 43 famiglie. Noi abbiamo detto dal primo giorno che bisogna togliere le concessioni dalle mani dei Benetton. Questo è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle e questo è quello che noi chiediamo a questo governo, e lo chiedo anch'io facendo parte di questo governo. Di questo governo. Che la procedura giuridica sia complessa è evidente, anche perché le modalità con cui è stata costruita la concessione e le convenzioni per i Benetton è un unicum nel panorama delle concessioni in Italia. Perché c'è solo quelle concessioni hanno un dispositivo normativo che le regolamenta, le previsioni per le rescissioni, la rescissione del contratto e la revoca sono previsioni assolutamente squilibrate tra l'interesse generale dello Stato e l'interesse privato, quindi è evidente che è una procedura complessa, ma l'obiettivo rimane quello che ho detto prima. L'ipotesi, allora, c'è una prima domanda politica su questo, ed è se le risulta che ci sia accordo col Partito Democratico sulla revoca della concessione. Il primo elemento, perché su questo non siamo ancora riusciti ad avere piena chiarezza. La seconda domanda è: nei giorni scorsi è circolata la voce che lo Stato potrebbe portarsi in pancia Autostrade, come la vede? Beh, sul primo punto credo che ci sia un accordo generale sul fatto che l'obiettivo che ho citato prima sia quello del tutto il governo, non soltanto di una forza politica. È necessario peraltro riequilibrare gli interessi dello Stato e gli interessi privati in tutti i temi delle concessioni autostradali, perché effettivamente c'è uno squilibrio tra i benefici privati e i benefici dei cittadini. Io ricordo che la privatizzazione in qualche modo delle concessioni. Quindi non c'è accordo pieno sulla revoca col Partito Democratico? Penso, guardi, onestamente, siccome ci sono vertici di maggioranza a cui io non partecipo perché ho già i miei problemi e cerco di occuparmi dei miei e non invadere il campo degli altri, io sono convinto che un accordo lo si troverà sul modo e sulla forma per raggiungere l'obiettivo, che è quello di togliere le concessioni dalla mano di Benetton. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Dicevo che comunque il tema delle concessioni è un tema molto ampio, perché non mi sembra che le concessioni private sulle autostrade, che sono di fatto monopoli, io quando esco da una città ho un'unica autostrada da poter prendere, non è che posso scegliere tra quattro gestori diversi dove la concorrenza quindi ha un valore per aumentare i servizi e diminuire i costi. In realtà i servizi sono quelli che vediamo ogni giorno, cioè lo stato manutentivo delle autostrade è uno stato drammatico e i costi per i cittadini sono lievitati, quindi che vada rivisto l'intero sistema di concessioni autostradali credo che sia evidente. Ministro, secondo lei nella gestione Ilva degli anni passati, diciamo, c'è stato un eccesso di fiducia nei confronti dei Mittal? Al momento di Ilva si parla sempre di meno, ma io vorrei capire se lei vede delle garanzie in quello che la famiglia Mittal vi ha fatto pervenire, o se invece pensa ancora che in realtà i Mittal se ne vogliano andare da Taranto. Ma innanzitutto io credo che non si tratti soltanto di una questione di fiducia, credo che sia stato un errore affidare al gruppo la gestione dell'Ilva, al gruppo che aveva presentato come unico elemento migliore rispetto all'altra cordata l'elemento prezzo, perché di questo che si tratta. Come noto, c'è stato un bando pubblico europeo, c'erano due cordate. Una era migliore sul piano ambientale, sul piano industriale, l'altra era migliore soltanto sul prezzo offerto. Oggi di fatto ci troviamo nelle condizioni di un impianto che produce poco, non produce in debito e non utili, quindi produce perdite non utili, e ovviamente viene messo in discussione anche il saldo prezzo. Noi stiamo trovando il modo di risolvere la situazione con una compartecipazione dello Stato all'interno dello stabilimento, se assieme a Mittal individueremo gli obiettivi comuni e se Mittal confermerà che quegli obiettivi sono comuni. Per noi l'obiettivo comune significa avere uno stabilimento che produce sia business dal punto di vista industriale, ma soprattutto che non produce inquinamento. E quindi passare al forno elettrico, passare a un impianto di pre-riduzione con il DRI, cambiare completamente la parte impiantistica, quindi sostituire gli altoforni attuali con i tre altoforni attuali con due altoforni nuovi, che quindi hanno un impatto ambientale del tutto inferiore, precedere tutto questo anche con una verifica sanitaria per garantire che l'impatto di questi nuovi impianti e di questo nuovo ciclo produttivo siano compatibili con la salute delle persone. Vogliamo accelerare sul piano ambientale, sul piano delle bonifiche, sia interno allo stabilimento, ma soprattutto quelle esterne allo stabilimento, ma soprattutto stiamo lavorando per dare delle prospettive occupazionali a Taranto diverse da quello stabilimento. Patuanelli, lei ha detto, ha parlato di un se Mittal, insomma, se Mittal ci starà in tutto questo, ma lei vede francamente delle alternative? Perché il tema è anche un po' questo: nel caso saltasse tutto con Mittal, chi se la prende, Ilva? Beh, innanzitutto c'è una filiera dell'acciaio italiana che ha interesse che quello stabilimento continui a produrre. Io quello che ribadisco è che non sarà un compromesso al ribasso. Per noi continuare a produrre così come oggi non è pensabile. Quindi non abbandoneremo la strada di una riconversione industriale in ottica di un acciaio prodotto in modo compatibile con l'ambiente. Quindi è pronta un'altra cordata, Patuanelli, ho capito bene? Non che sia pronta un'altra cordata, questo no. Lo sta dicendo lei. No, non lo cerco di estrapolare da quel che ci ha detto, per carità. Che ci sia la volontà. Guardi, in questa operazione lo Stato investe dei capitali ingenti. Crediamo fortemente in quello che stiamo facendo anche assieme a Francesco Caio, come sapete il nostro consulente in questa fase di trattativa, che ha lavorato benissimo in questi mesi proprio sul piano industriale. Crediamo che sia un piano il piano migliore per lo stabilimento di Taranto. Quando lo Stato ha questa convinzione, diciamo che prescinde dal partner privato che lo accompagna. Ministro, senta, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre intorno a lui impazzano le congiure, i complotti, eccetera, fa trapelare il suo pensiero e dice: non mi faccio dettare l'agenda da un partito del 3%, che sarebbe Italia Viva. E però, prendo il caso per esempio del suo lavoro di ministro, tutto sembra fermo. Ci sono per esempio dei tavoli bloccati, mi pare, dai tempi in cui c'era Corrado Pass dal ministero, e per i quali non si vede la soluzione. Sono famiglie che rimangono in attesa di capire che ne sarà della loro vita economica. Come si fa, ministro, ad andare avanti, appunto, cercando di risolvere le situazioni, i tavoli aperti, mentre c'è una guerriglia in corso, almeno di carta, almeno sui giornali, ma anche spesso anche nelle commissioni sono volate urla l'altra sera? Come si fa? Mi racconti la sua esperienza proprio umana di ministro. C'è un momento in cui lei ha pensato, dice: ma vabbè, ma così non si può andare avanti? No, onestamente non penso mai così non si può andare avanti, anche perché entro al MISE alle 7:30 della mattina, esco quasi sempre dopo le 10 di sera, cerco di lavorare sui temi del mio ministero, collaborando con il mio viceministro e gli altri 4 sottosegretari, di cui 2 sono del Partito Democratico, con cui lavoriamo benissimo in sintonia, affrontando quotidianamente tutte le difficoltà di questo ministero, che non è il ministero delle crisi aziendali, perché come posso dire, il ministero dello sviluppo economico deve porsi il tema dello sviluppo economico e quindi del piano industriale per il paese, dei settori industriali sui quali investire, penso all'automotive, all'edilizia, alla siderurgia, a tutta la filiera dell'acciaio, alla manifattura. Proprio per questo io sto cercando di sradicare dalla percezione comune che questo è il ministero dove si fanno i tavoli di crisi, perché non è così, perché molto spesso sono crisi di mercato dove nessun governo, nessun ministro può fare nulla per una crisi di mercato, se non quella di investire in un piano industriale che alzi la produzione industriale del nostro paese nel suo complesso. Ieri è stata una giornata, ieri e martedì sono state due giornate molto importanti a Bruxelles, non solo con la vicepresidente Vestager, ma anche con la commissaria Simpson che si occupa di energia, o col commissario Breton che si occupa proprio di politica industriale, dove abbiamo parlato del disegno industriale complessivo dell'Unione Europea rispetto alle grandi economie delle altre parti del mondo, penso agli Stati Uniti e alla Cina. C'è un dibattito in corso sulla necessità o meno di avere dei grandi campioni europei dei diversi settori industriali, ad esempio la fusione tra Fincantieri e STX, che personalmente ritengo fondamentale, perché nella cantieristica navale Fincantieri ha i vertici mondiali per capacità, per produzione, per ricerca e sviluppo su molti prodotti, e credo che è così che si affrontano i temi. Dopodiché le piccole polemiche quotidiane, ogni tanto mi capita di leggerle, ogni tanto mi sfuggono direttamente perché non ho nemmeno tempo di leggere i giornali, e cerco di lavorare al massimo per ottenere, diciamo, i risultati che da questo ministero ci si aspetta. Allora Patuanelli, nelle scorse ore è successo qualcosa che potrebbe avere un impatto importante anche esattamente sull'industria italiana, ossia il lancio dell'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UBI. Perché parlo dell'industria italiana? Perché ovviamente si va a creare una grande banca, una banca ancora più grande di quanto non sia Intesa adesso, che è Intesa San Paolo, che è la maggiore banca del paese e che ovviamente guarda soprattutto al paese, guarda alle aziende, ed è un fattore importante per un paese che è essenzialmente bancocentrico dal punto di vista delle imprese, insomma dal punto di vista del finanziamento alle imprese. Come legge, posto che ovviamente UBI dovrà decidere, ma Massia ieri ha detto non è scontato il sì all'offerta pubblica di scambio, come legge una fusione di questo tipo dal suo punto di vista e dal suo osservatorio? Beh, guardi, innanzitutto ovviamente ci sarà la totale libertà del mercato di decidere qual è poi l'assetto definitivo e se UBI accetterà questa offerta o meno. Detto questo, credo che creare un colosso bancario italiano sia certamente porte ad aspetti positivi che vanno monitorati negli effetti collaterali, cioè nella presenza degli sportelli, nella garanzia dell'occupazione. Ma certamente scorgo più aspetti positivi di quanto possano essere preoccupanti quelli negativi. Detto questo, il problema del credito all'impresa è un problema enorme, legato a mio avviso all'immissione di ingenti quantità di denaro da parte di Draghi con quantitative easing, e questo ha portato a un abbassamento dei tassi di interesse con cui si prestano i soldi, mentre il campo finanziario ha marciato con guadagni a doppia cifra per molti anni, per cui una banca non ha nessun interesse a prestare soldi perché li deve prestare quasi a tasso zero, mentre investendo nelle parti finanziarie riesce ad avere molti grandi utili. Per questo credo che, a prescindere da un grande gruppo privato, che è giusto che sia così, peraltro Banca Intesa ha dimostrato di essere una banca molto vicina alla necessità di creare un sistema paese, penso a come Banca Intesa si è interrotta con il governo sulla questione ILVA, ad esempio, con grande attenzione, grande capacità e mettendosi a disposizione in qualche modo dello Stato per risolvere quel problema. Chiusa questa parentesi, dicevo che a prescindere dalla creazione di un grande gruppo privato sia necessaria una banca pubblica degli investimenti per garantire la necessaria liquidità alle imprese. Ministro, mi perdoni, siccome abbiamo un minuto, c'è un punto importante che vorrei capire. Lei parlava di Bruxelles, della visita che ha fatto nei giorni scorsi, e nei giorni scorsi, un po' a sorpresa, devo dire, Paolo Gentiloni, il nostro commissario Paolo Gentiloni, ha ammesso che il reddito di cittadinanza ha contribuito, sia pure in minima parte, però a una piccolissima ripresa dei consumi. E tuttavia il reddito di cittadinanza è nel mirino di molti che vorrebbero abolirlo, ne ha parlato anche Renzi. Bene, secondo lei il reddito di cittadinanza sarà il prossimo baluardo da difendere o non è in discussione? Beh, non è in discussione nella misura in cui non ci sarà mai la possibilità e la disponibilità del Movimento 5 Stelle di discutere la misura che è stato un cardine della propria attività politica e che è riuscita a fare nel primo anno di governo, in cui appunto ha avuto la possibilità di metterla in campo come misura necessaria per un sostegno alla povertà, per un sostegno alle famiglie che non arrivavano alla soglia di povertà. Credo che, come ha sottolineato anche recentemente il Presidente Conte rispondendo a un question time al Senato, la misura va valutata anche nell'evoluzione nel tempo. È chiaro che la parte di sostegno al reddito era la parte più immediata e la parte più complicata, invece è il matching tra la domanda e l'offerta di lavoro, ma sì, vediamo già i primi risultati. Monitoriamo quella, se c'è da inserire qualche elemento nuovo rispetto al ruolo dei navigator, ai centri per l'impiego, lo si deve fare, ma è impensabile tornare indietro sulla misura sacrosanta. Grazie a Stefano Patonelli, Ministro dello Sviluppo Economico. Non abbiamo nemmeno tempo per i saluti, perché abbiamo già sforato di un minuto. Buona giornata a tutti, ciao.